Capitolo 15. Un telegramma. Il novembre è il mese più antipatico dell'anno, disse Meg affacciandosi alla finestra in un pomeriggio triste a guardare il giardino sotto il gelo. Ecco perché sono nata io di novembre, osservò Joe pensosa e senza accorgersi di una macchia d'inchiostro che aveva sul naso. Se adesso accadesse una cosa bella, allora si direbbe che è un bel mese, disse Beth, che vedeva con occhio ottimista tutto anche il novembre. Allora sì, ma nella famiglia nostra non accadono mai le cose belle, disse Meg, che era molto giù di morale. Si lavora sempre, tutti i giorni, senza un po' di varietà e quasi senza un po' di divertimento. Signore, come sei nera oggi, esclamò Joe. Non mi stupisce del resto, povera Meg. Certe ragazze se la godono e tu a faticare tutto l'anno. Ah, se potessi far andar bene le cose per te, come le faccio andare per le eroine dei miei racconti? Anche tu in fondo sei abbastanza bella e buona, perché non ti dovrebbe capitare da un momento all'altro un grosso lascito di qualche parente e fare di te una ricca ereditiera che guarda dall'alto in basso tutti coloro che prima ti guardavano dall'alto in basso? E viaggia all'estero e ritorna trasformato in Lady non so chi, in un'aureola di eleganza e di splendore. La ricchezza oggigiorno non viene a quel modo, disse Meg amara. Gli uomini se la devono conquistare lavorando e le donne sposando uno che sia ricco. Quanta ingiustizia nel mondo. Ma Joe e io guadagneremo tanto per voi altre. Aspetta solo 10 anni e vedrai se non è vero, disse Amy, che in un angolo faceva i suoi pupazzi di fango, come chiamava Anna gli uccelli, i frutti e le teste che ella modellava nella creta. Campacavallo. E poi nell'inchiostro e nelle cose che sporcano le mani io non ci credo molto. Mi sono grata della buona intenzione, però, disse Meg con un sospiro, e tornò a guardare il giardino sotto il gelo. Anche Joe sospirò, appoggiando sconsolata i gomiti sulla tavola. Ma Amy, impermalita, trottò via col suo passo vivace, e Beth, che guardava dall'altra finestra, disse: Intanto due cose belle accadranno subito. Arriva la mamma e dal giardino viene Lori e ha l'aria di avere qualcosa di bello da dire. E giunsero ambedue le persone attese. La signora March, che domandò subito: Ragazze, ci sono le tre del babbo? E Lori a invitare con la sua voce persuasiva: C'è nessuno che viene a fare una trottata con me? Ho sgobato tanto sulla matematica e mi sento il cervello come una poltiglia. Mi ci vuole un po' di aria pura e fresca e di moto. La giornata è brutta, ma l'aria non è cattiva. Riporto a casa sua Brooke. Fuori sarà triste, ma dentro la carrozza si starà allegri. Joe, Beth, almeno voi due ci venite? Naturalmente. Io ti ringrazio molto, ma ho da fare, disse Meg, mettendo fuori prontamente il cestino da lavoro. Con la mamma si erano messe d'accordo che lei perlomeno si astenesse dall'andare troppo sovente in carrozza col giovane amico. Noi tre siamo pronti in un minuto, disse Amy, e scappò a lavarsi le mani. Posso fare qualcosa per voi, signora mamma? Chiese Lori con un inchino alla signora March, che si era seduta, e con lo sguardo e il tono affettuoso che aveva sempre per lei. No, grazie, caro. Al più potreste passare alla posta, se volete farmi un favore. Doveva arrivare una lettera oggi, ma il postino non è venuto. Mio marito è puntuale come il sole, ma forse c'è stato qualche ritardo. La interruppe una forte scampanellata e un minuto dopo entrava Anna con una busta. È uno di quei diabolici telegrammi, signora, disse Anna e glielo porse con precauzione, come se maneggiasse un esplosivo pericoloso. Ma già, alla parola telegramma, la signora Marce glielo aveva strappato, lo aperse con le mani tremanti, scorse con gli occhi le due rive che conteneva e ricadde sulla spalliera come se quel pezzo di carta l'avesse colpita con una palla al cuore. Lori scappò di sotto a prendere un po' d'acqua, Meg e Anna sostenevano la mamma e Joe leggeva forte, con la voce tremante: Signora March, marito assai grave, venite subito. S. Hale, ospedale, Washington. Per qualche tempo nella stanza vi fu un silenzio di tomba. Di fuori il cielo parve ancora più scuro. Il mondo sembrava ad un tratto diventato un altro. Le quattro fanciulle si strinsero alla madre tutte tremanti. Si sentivano come se nella loro vita stesse per mancare ogni felicità e ogni sicurezza. La signora March fu la prima che tornò ad essere lei. Rilesse il dispaccio, estese le braccia alle figliuole dicendo con un tono che esse poi non dimenticarono mai: «Vado subito, ma potrebbe essere tardi. Bambine, bambine mie, aiutatemi a sopportare tutto». Per qualche minuto non si udirono che singhiozzi, con qualche parola mozza di conforto, qualche tenera assicurazione di aiuto, qualche bisbiglio di speranza che moriva nel pianto. La prima a riaversi fu la povera Anna, e la sua saggezza inconscia fu di esempio a tutte. Per lei, anche in quel momento, fare qualche cosa, lavorare, era il rimedio per tutti i mali. Che Dio lo aiuti, povero signore. Io non sto qui a piangere e a perdere tempo, signora. Vado subito a prepararvi la valigia. Parlava con energia e si asciugava le lacrime col grembiule. Con la sua mano callosa, strinse forte la mano della signora e se ne andò a lavorare per tre. Ha ragione, Anna, non è tempo di piangere ora. Calma, bambine, lasciatemi riflettere. E cercarono di restar calme, le povere bimbe, mentre la mamma con uno sforzo si levava pallida ma ferma e risoluta, facendo tacere il dolore per pensare a ciò che doveva fare per loro. «Dov'è Lori?» ella chiese, appena ebbe messo un po' d'ordine nelle idee e deciso quali erano le cose più urgenti. «Qui, signora, ditemi quello che devo fare», supplicò il ragazzo, accorrendo dall'altra stanza dove si era ritirato, perché sentiva che quel primo dolore della famiglia era cosa troppo sacra anche per un amico come lui. «Telegrafare che vado subito. Il primo treno parte domattina presto, prendo quello». «Nient'altro? I cavalli sono pronti, posso andare dovunque, posso fare qualunque cosa», disse il ragazzo con l'aria di uno che è pronto a volare in capo al mondo. «Lasciare un biglietto dalla zia March. Joe, dammi quella penna e la carta». Joe strappò la metà bianca da un foglio sul quale aveva cominciato a scrivere in bella copia e trasse il tavolino davanti a sua madre. Sapeva bene Joe che per il lungo viaggio doloroso il denaro bisognava chiederlo a prestito e si sentiva pronta a tutto per aggiungere qualche cosa alla somma. «Andate ora, caro Lori, ma non a rotta di collo, non ce n'è bisogno». L'ammonimento era vano, come si vide 5 minuti dopo, quando Lori, in groppa al suo veloce cavallino, passò davanti alla finestra un galoppo disperato. «Joe, va subito dalla signora King a dirle che io non posso andarci. Cammin facendo, compera queste cose, ti ho fatto la nota. Potrebbero essermi necessarie per fare da infermiera, come forse occorrerà. La roba che hanno negli ospedali non è sempre buona. Beth, tu va dal signor Lawrence a chiedergli per favore un paio di bottiglie di vino vecchio. Non vergognarti, lo fai per il babbo. Bisogna che abbia quello che c'è di meglio, di ogni cosa. Amy, di ad Anna che porti giù il baule nero. Tu, Meg, vienmi ad aiutare per trovare le cose che devo portare per me, perché io ho la testa sottosopra». E non era da stupire. Povera signora, considerando che aveva contemporaneamente da scrivere, da riflettere, da dare ordini. Meg la pregò di andare in camera sua e sedersi un poco, e intanto lasciar fare a loro. Si dispersero come foglie a una raffica di vento. Si sarebbe detto che in mezzo alla quiete beata della casa il telegramma fosse piombato come una bomba, come una cattiva sorte. E il signor Lawrence arrivò in fretta con Beth, portando seco tutto ciò che gli era venuto in mente potesse riuscire di qualche utilità al malato e con offerte di protezione e assistenza paterna per le ragazze durante l'assenza della madre. E questo fu per lei un gran conforto. Tutto egli voleva offrire, a cominciare dalla sua veste da camera. Anzi, da principio offerse anche la sua compagnia alla signora March per il viaggio, ma la cosa era impossibile. Ella non volle assolutamente che alla sua età egli affrontasse una fatica simile. Le avrebbe dato una preoccupazione di più, oltre a quelle che aveva già. Ma l'idea di avere una compagnia, una scorta, non le sarebbe dispiaciuta. Ed egli, che se ne era subito accorto dall'espressione del suo volto, abbassò un momento le palpebre grevi. E dopo un minuto di riflessione uscì, fregandosi le mani e avvertendo che tornava subito. Nessuno ci badò più finché Meg, passando di corsa da una porta con un paio di soprascarpe in una mano e una tazza di tè nell'altra, Si trovò inaspettatamente di fronte al signor Brooke. Ho saputo la brutta notizia, signorina March, egli disse con un tono cortese e tranquillo che alla povera figliuola fece molto bene. Vengo ad offrire la mia compagnia, la mia assistenza a vostra madre. Il signor Lawrence ha delle commissioni per Washington e io sarò ben lieto di poterle essere di qualche aiuto laggiù. Le soprascarpe caddero a terra e per poco non cadde anche la tazza. Meg tese la mano al signor Brooke con tanta gratitudine espressa nel volto che egli si sarebbe sentito compensato anche per un sacrificio molto più grande di quello insignificante che faceva di un po' di tempo e di comodità. Oh, molto, molto gentile da parte vostra. La mamma accetterà, ne sono certa, e per noi sarà un gran sollievo pensare che ha qualcuno che si occupa di lei. Tante, tante, tante grazie. Parlava con tale sincera convinzione che dimenticava ogni altra cosa, ma uno sguardo degli occhi neri di lui le fece ricordare la tazza di tè che si andava raffreddando. Allora ella lo precedé nel salotto per informare subito la mamma. Tutto era combinato quando ritornò Lori con un biglietto della zia March contenente la somma richiesta. In poche righe, la zia ripeteva ciò che aveva detto e ridetto tante volte, che March faceva una cosa assurda arruolandosi e che non ne poteva venire fuori niente di buono e che lei sperava, un'altra volta, che le avrebbe dato retta. La signora March gettò il biglietto nel fuoco, mise il denaro nella borsa e tirò avanti nei suoi preparativi con le labbra serrate, come l'avrebbe capita Joe se in quel momento fosse stata lì. Il breve pomeriggio passava. Tutte le altre faccende erano fatte. Meg e la mamma si occupavano di qualche lavoro d'ago indispensabile, mentre Beth e Amy prendevano il tè e Anna finiva di stirare, battendo rumorosamente il ferro sulla tavola. E Joe non tornava ancora. Cominciarono a preoccuparsi. Lori uscì alla ricerca. Quella Joe non si sapeva mai cos'era capace di fare. Ma Lori non la trovò. Ed ella ritornò più tardi con un'espressione strana, fra la voglia di ridere e il timore, fra la soddisfazione e il pentimento. Quando la videro, e quando videro il rotoletto di carta monetata che ella depose davanti alla madre, nessuno seppe che pensare, ma lei, con la voce un po' strozzata, «Mamma», disse, «ecco il mio contributo per far stare meglio il babbo e farlo ritornare». Cara, dove li hai avuti? 25 dollari? Non avrai mica fatto sciocchezze, spero. No, mamma, è denaro mio, guadagnato onestamente. Non ho chiesto elemosine né prestiti e non ho rubato. E non credo che mi disapproverai, perché non ho fatto altro che vendere una cosa che era mia. E così dicendo, si tolse il cappello. Fu un grido generale. I suoi lunghi capelli erano tagliati. I capelli, i tuoi bei capelli, che hai fatto, Joe? La sola cosa bella che aveva. Bimba mia, cara, ma non c'era bisogno. Oh, non è più la mia Joe a vederla. Ma che bene le voglio adesso per questo. Tali erano le esclamazioni e i commenti che accolsero la rivelazione. Beth accarezzava con tenerezza la testa di maschiaccio della sorella. Joe si dava un'aria indifferente che però non ingannava nessuno. Si ravviò all'indietro ciò che le restava di capigliatura, come se le piacesse così, e disse: «Non ne va mica di mezzo la nazione, sai, Beth? Sarà tanto meglio per la mia vanità. Stavo diventando troppo orgogliosa della mia chioma. Mi farà bene anche al cervello. Ora mi sento così leggera, così fresca. Il parrucchiere mi ha detto che presto sarò tutta ricciuta e avrò un'aria da maschio che mi starà molto bene. E sarà più comodo per tenerli in ordine. Sono contenta di quello che ho fatto, perciò prendi il denaro, mamma, e andiamo a cena». «Dimmi com'è stato, Joe. Dimmi tutto. Non sono ben persuasa. Non riesco a rimproverarti perché sono certa che il sacrificio della tua vanità, come dici tu, all'affetto che hai per il babbo, tu l'hai fatto di buona voglia, ma vedi, cara, non era necessario e temo che poi verrà il pentimento». «Mai!» assicurò Joe. Si sentiva molto sollevata ora, vedendo che il suo colpo di testa non era condannato del tutto. «Ma che cosa te l'ha fatto fare?» le chiedeva Amy. A lei di farsi tagliare i suoi bei capelli sarebbe venuto in mente come di farsi tagliare la testa. «Ecco, avevo una voglia prepotente, irresistibile, di fare qualcosa per il babbo», disse Joe mentre si mettevano a tavola. «La gioventù sana può mangiare anche in mezzo agli affanni. Chiedere prestiti mi ripugna, come alla mamma. La zia March, chissà come avrebbe gracchiato. Basta sentirla quando le domandano 10 soldi. Il trimestre di Meg è andato tutto per il fitto. Io, col mio, non sono riuscita che a farmi qualche vestito e ne avevo rimorso. E assolutamente volevo far denaro in qualche modo a costo di vendere il naso». «Ma non dovevi averne di rimorsi, cara. Non avevi di che vestirti quest'inverno e col tuo denaro che ti ha costato tanta fatica hai comperato le cose più modeste che c'erano», disse la signora March con un'occhiata che fece un gran bene al cuore di Joe. «Di vendere i capelli non avevo la minima idea da principio, ma camminando non pensavo che a questo. Cosa posso fare? Mi sentivo come capace da un momento all'altro di piombare dentro un negozio di lusso e mettermi a darraffare roba. L'occhio mi cadde sopra una vetrina di parrucchiere. C'erano esposte certe trecce, coi prezzi segnati. Una nera, ma più piccola della mia, costava $40. Subito mi venne l'ispirazione. Dunque l'avevo io una cosa da farne denaro. E senza starci a pensare un momento entrai e domandai se compravano capelli e quanto mi davano dei miei. «Che coraggio hai avuto!» disse Beth sbigottita. «Oh, era un omino alto così, con l'aria di non avere altro scopo nella sua vita che mantenere ingrassati e lucidi i capelli. Lì per lì fece tanto d'occhi, come se io fossi stata la prima ragazza che gli entrava nella bottega e gli faceva l'offerta. Disse che i miei non li voleva, perché il colore non era di moda e che lui quando comprava non pagava molto. Il valore, i capelli, diceva, lo acquistavano dopo una faticosa lavorazione e così via. Si faceva tardi e io temevo che, se non si combinava subito, non se ne facesse più nulla. Lo sapete, che quando mi metto a fare una cosa non mi piace di lasciarla a metà. Perciò insistei che li prendesse. Gli spiegai perché avevo tanta fretta. Adesso, ripensandoci, mi pare che ho fatto una sciocchezza a parlargli a quel modo, ma fu proprio quel discorso che lo persuase. Io ero eccitatissima e gli raccontavo la storia senza ordine, in confuso. Sua moglie udì e in tono cortese gli disse: «Prendili, Tommaso, per fare un piacere alla signorina. Io per il nostro Jimmy venderei i miei se ne avessi una ciocca sola che si potesse vendere». «Chi era Jimmy?» chiese Amy, che sempre voleva sapere il perché e il per come delle cose. «Era il loro figliuolo», disse lei, «che è soldato. Certe cose affratellano subito le persone più estranee l'una all'altra. Non è così?» Mentre il marito tagliava, lei non fece che discorrere e fu una distrazione provvidenziale. Deve essere stato terribile sentire il primo colpo delle forbici», esclamò Meg con un brivido. «Ah!» mi diedi un'ultima occhiata nello specchio quando l'uomo preparava i ferri e poi guardai altrove. Io per le sciocchezze non sto mai a piagnucolare, ma confesso che mi fece una certa impressione a vederli lì sulla tavola, i miei vecchi cari capelli, e poi toccarmi e sentire questi mozziconi corti, ispidi. Mi sentivo come se mi avessero tagliato un braccio o una gamba. La donna vide il mio sguardo e me ne diede una lunga ciocca per memoria. Eccola qui, mamma. Resterà a ricordare la gloria che fu. Perché, credi, coi capelli corti mi trovo tanto comoda e non credo che me li lascerò più crescere lunghi, mai più». La signora March arrotolò la lunga ciocca di capelli castani e la racchiuse in un tiretto insieme con un'altra che era di capelli grigi e corti. A Joe non disse che 2 parole. «Grazie, cara». Ma le sorelle la guardarono in volto e subito cambiarono discorso, parlando animatamente del signor Brooke, che era tanto gentile, e della bella giornata che prometteva di essere domani, e della gioia che avrebbero avuto quando il babbo sarebbe tornato in convalescenza. Nessuno aveva voglia di andare a letto, ma la signora March, finite le ultime faccende e messo in ordine tutto, disse: «Andiamo, figliuole. Beth si mise al piano e suonò l'inno che il padre preferiva. Tutte le voci attaccarono bravamente, ma una dopo l'altra vennero meno con un sospiro. Beth proseguì da sola sino alla fine, a cantare e a suonare con tutta l'anima. Per lei la musica era sempre la grande consolatrice. Andate a letto e non state a discorrere, perché ci dobbiamo alzare presto e bisogna riposarci più che si può. Buonanotte, care, disse la signora March quando l'inno terminò e nessuna si sentiva di cantarne un altro. Una alla volta, chete chete, andarono a darle il bacio e poi a letto in silenzio, come se il caro infermo fosse stato nella camera accanto. Beth e Amy, malgrado il gran turbamento, si addormentarono subito. Meg, invece, stava desta, rivolgendo nella mente i pensieri più seri che aveva avuto nella sua vita ancor breve. Joe stava immobile. La sorella pensò che forse dormiva, ma la scosse un singhiozzo trattenuto e, allungando la mano, sentì una guancia umida di pianto. Joe, cara, cosa c'è? Piangi per il babbo? No, non per lui in questo momento. E per cosa, allora? I miei capelli! Scoppiò a dire la povera Joe, sforzandosi vanamente di soffocare l'emozione dentro il guanciale. Era incoerente, ma Meg la capiva e con le carezze più tenere, coi baci, cercò di consolare la piccola eroina che cedeva a un momento di debolezza. Non mi dispiace, sai, protestava Joe fra i singhiozzi. Quello che ho fatto lo rifarei domattina, se fosse possibile. Non è che la parte vana e egoista di me che si mette a piangere così, stupidamente, non lo dire a nessuno. Mi è passato ora. Credevo che tu dormissi e mi concedevo un piccolo sfogo, un rimpianto per la sola bellezza che avevo. Com'è che non dormi tu? Non mi riesce, disse Meg. Sai, i pensieri. E tu? Pensa a qualcosa di piacevole. Dormirai subito, vedrai. Ho provato, ma sono più sveglia che mai. A cosa hai pensato? Bei volti. Begli occhi soprattutto, rispose Meg e sorrise nell'oscurità. Di che colore ti piacciono di più? Scuri? Ma del resto qualche volta sono belli anche gli occhi azzurri. Joe allora si mise a ridere e Meg le ordinò severa di non parlare. Poi raddolcì la voce e le promise che le avrebbe arricciato i capelli. Quindi si mise a pensare al suo castello in aria. E si addormentò. Gli orologi battevano la mezzanotte e la casa dormiva. Un'ombra passava, cheta cheta, da un letto all'altro e qua rassettava una coltre, là un guanciale, e ad ogni letto si fermava a lungo a guardare con tenerezza la faccia addormentata che vi giaceva e a deporvi un bacio lieve con le labbra che mormoravano una benedizione e una preghiera. Una di quelle preghiere ferventi di cui è capace solo il cuore di una madre. Quando ella sollevò la tendina per dare un'occhiata di fuori nella notte cupa, la luna si affacciò ad un tratto di dietro le nuvole e la guardò, simile a una luminosa faccia sorridente che le bisbigliasse nel silenzio: «Coraggio! Dietro le nuvole c'è sempre la luce!»